Ora noi abbiamo somministrato 3.272.080 somministrazioni di vaccino, che sono nella quasi totalità dei casi prime dosi, quindi sostanzialmente noi siamo all'81,4% delle persone che dovremmo vaccinare. Quindi mancano 746.542 persone alle quali noi rivolgiamo un accorato appello affinché prendano l'iniziativa di vaccinarsi o attraverso la solita metodologia della prenotazione, oppure recandosi agli ormai innumerevoli punti vaccinali on the road, nelle piazze, nelle sagre, nelle feste, nei luoghi di aggregazione, dove fondamentalmente la vaccinazione ormai è totalmente passata da un sistema di prenotazione a un sistema di presentazione. Le prenotazioni che abbiamo da oggi a fine settembre sono quasi 62.000, quindi vuol dire che a questo numero, 746.542 persone che ancora mancano all'appello, si devono poi sottrarre almeno queste 62.000 persone che si sono già prenotate per il vaccino da qui a fine settembre. Anche a queste persone comunque io rivolgo l'appello di considerare l'anticipo della loro prenotazione, cioè se uno è prenotato per il 26 settembre, che ne so, il 25 settembre ed è, che ne so, di Bologna, l'appello è quello di recarsi in piazza San Petronio o alle feste dell'Unità oppure alle feste degli altri partiti politici o alle sagre o alle iniziative itineranti e anticipare la prenotazione, la vaccinazione, perché si mette al sicuro dalla ondata epidemica che comunque, per quanto stabile, continua ad esserci. Siamo al 71,6% invece per le dosi, per le vaccinazioni diciamo definitive, per coloro che hanno completato il ciclo di immunizzazione, e sono 2.877.703 persone. Una buona copertura per ogni fascia di età. Ci stiamo avviando molto bene sulla vaccinazione dei 12-19 anni, che sono al 63% come prima dose e al 40% circa come seconda dose. Quindi diciamo che ci stiamo avviando sui 2/3 del target, che comunque è un obiettivo importante e che speriamo di incrementare nei prossimi giorni. Molto bene la fascia 20-29 anni, che già praticamente all'80% di prima dose e al 56 di seconda, 30-39 anni 72,4 prima dose, 55,8 per la seconda, 40-49 anni 74,1% prima dose, 63,9 la seconda, 50-59 anni l'82,8 prima dose e il 77,4 la seconda, poi dai 60 ai 69 siamo l'88,4 la prima dose e l'86% la seconda, e 70-79, 92,6 la prima dose, 90,7 la seconda. Oltre gli 80 anni siamo praticamente al 99,3% di prime dosi e 97,4% di seconde dosi. Si conferma una sorta di ondata epidemica soprattutto destinata e rivolta alla popolazione non vaccinata. È per questo che io chiedo, diciamo, riformulo l'appello ai cittadini di qualunque età a vaccinarsi, ad anticipare eventualmente la vaccinazione prenotata e a vaccinarsi il prima possibile. Ripeto, vaccinarsi il prima possibile, perché intanto sull'efficacia dei vaccini noi abbiamo uno studio che la dottoressa Moro è in grado di argomentare anche nel dettaglio, che in sostanza definisce in questi 7 mesi di vaccinazioni rispetto alla popolazione vaccinata una protezione nei confronti del contagio che continua ad essere altissima, all'87%. Quindi chi si vaccina ha l'87% di possibilità di non contrarre l'infezione da Covid, il 94% di possibilità di non essere ricoverato e il 95% di possibilità di non finire in terapia intensiva e di non morire.